Noi pensiamo che questo piano sia una sterzata culturale, economica e anche finanziaria. Questo piano sancisce una transizione con un approdo, coerenti con l'impianto anche europeo del Green Deal, ma anche una sterzata innovativa. Andremo a posizionare nuove tecnologie per fare energia green. Io penso che questo sia un fatto molto importante. Un investimento di 4,5 miliardi, risorse certe, pubbliche, del PNR, del FESR, dell'FSE, ma l'indicatore più forte, importante che avremo è che a fronte di un euro di investimento pubblico in questi settori c'è più di un euro di investimento privato. Quindi noi avremo da mettere a terra circa il doppio dei 4 miliardi e mezzo di investimento di un moltiplicatore privato molto importante. E con questa operazione non dimentichiamo mai che con queste nuove filiere noi vogliamo anche creare lavoro. Non è che nella transizione non si utilizza il gas, altrimenti non avremmo fatto il rigassificatore per aiutare il nostro paese. Ma mentre sappiamo che la transizione a gas, questo piano va a dire macchina avanti tutta sul sistema delle rinnovabili, sulla diversificazione di tutte le fonti rinnovabili, tutte, nessuna esclusa, con una novità che diventa conveniente fare l'investimento nelle rinnovabili. Sempre più avremo energia di prossimità, sempre più avremo soggetti che possono essere soggetti civili, un condominio, un'impresa, un servizio che va a fare investimenti su rinnovabili di prossimità, in autoproduzione, in autoconsumo. Non ci saranno più le grandi centrali, non ci saranno più investimenti in grandi centrali. Quindi diventa conveniente fare investimenti sulle rinnovabili di prossimità. E stiamo parlando di diversificazione delle fonti, diversificazione anche di approvvigionamenti geografici, ma soprattutto, essendo una grande regione manifatturiera, abbiamo anche pensato a energie di continuità green. Siccome noi abbiamo bisogno anche di energie di continuità, noi faremo grandi investimenti nel piano su tutto l'impiantistica innovativa, biomasse, biometano, biogas. Ormai ci sono impianti molto consolidati, molto efficaci, molto efficienti. E poi una grande operazione sulle filiere, tutte saranno interessate. Se dico mobilità, provate a immaginare lì il cambiamento già in atto, ma che verrà spinto moltissimo da questo piano sull'ibrido, sull'elettrico, sull'idrogeno, sui biocarburanti, non lasceremo niente indietro. E l'altro punto, la produzione di energia, ovviamente fotovoltaico, eolico. Un'operazione innovativa degli stoccaggi, Enel sta facendo un'operazione ad esempio molto innovativa negli stoccaggi, anche gli stoccaggi deve diventare una nuova cultura, perché quanto più avremo la possibilità di stoccare energia anche da rinnovabili farà la differenza. E poi tutto il tema anche della geotermia, ma anche delle agroenergie, ma non dimentichiamoci anche una cosa culturale che sta già avvenendo, che è risparmio, riuso, riciclo, economia circolare. Ovviamente c'è il tema dell'abitare, progettare green, abbiamo messo vincoli green sulle nuove costruzioni civili, industriali, dei servizi, forte investimento sulle reti, un nuovo ecosistema green integrato. E in questa operazione oggi portiamo tutta questa discussione in assemblea, abbiamo costituito anche un tavolo per la semplificazione delle norme.